Vendo tutto di Matteo Caccia. La Vespa, il frigorifero, il corso di tennis e quello d'arrampicata, il divano, il cellulare, la TV, l'abbonamento a teatro, l'attrezzatura da sci e quella da sub, l'orologio da polso e quello da parete. Tutto. Vendo tutto. La mia ragazza mi ha lasciato. Dopo 4 anni insieme mi ha lasciato. Capita, lo so. Succede a tutti ed è toccato anche a me. Io però questa volta ho deciso. Mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita. Io ne inizio una nuova. Venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una chitarra classica. Sono le 16:07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e questa è la mia chitarra, magari anche se non la spacco prima di venderla potrebbe anche non essere male. Vi ringrazio per i messaggi che sono arrivati a vendotutto@radio24.it. Il tema di solito era più o meno comune ed era: ma non ti dispiace liberarti dei tuoi oggetti? Ovviamente sì, c'è una parte di me che si dispiace. Ad esempio questa chitarra che ho in mano e che sto strimpellando mi è appartenuta dal 2001, quindi sono 9 anni ormai e quindi un po' mi spiace. Però il fatto è che accumuliamo un sacco di oggetti nell'arco della nostra vita, no? Non ce ne rendiamo nemmeno conto quanti sono. Forse basta pensare tipo al garage di vostra nonna. Di solito è il garage della nonna che viene riempito della roba che non si usa più. Ecco, il momento in realtà preciso in cui ci accorgiamo di quanta roba inutile abbiamo accumulato è durante il trasloco, quando praticamente c'hai un botto di roba che dici: ma questa roba qua perché io l'ho presa? Facciamo così: la prossima volta che comprate qualcosa, domandatevi prima: se dovessi fare un trasloco, cosa ne farei di questa roba qua? Io non sto facendo un trasloco, ovviamente. Io, per chi non l'avesse capito, sto vendendo tutto. Ogni giorno vendo un oggetto alla volta, vi racconto la sua storia e voi potete comprarlo su eBay. A proposito di eBay, la bottiglia di ieri ha già 6 offerte di acquisto. Ringrazio i coraggiosi che sono pronti a ricevere la spedizione a casa di quella bottiglia di vetro. Il prezzo mi pare sia arrivato a 5,50. Perfetto, base d'asta era 90 centesimi. L'asta è ancora aperta e scade tra una settimana. Ma da pochi minuti è all'asta anche questo oggetto qui, questa mia chitarra. La vendo oggi, ovviamente, ma l'asta rimane aperta fino a 10 giorni, mi pare che duri l'asta. Sono 90 centesimi, la base d'asta è 90 centesimi. D'altra parte, ieri vi ho raccontato come la storia con Giulia è finita, giusto? Attraverso la bottiglia. Oggi invece vi racconto come è iniziata, grazie a questa chitarra. Ammetto che io con questa chitarra ho sempre avuto un rapporto particolare, una sorta di senso di colpa che mi sento nelle ossa, perché di fatto io la chitarra non ho mai imparato a suonarla veramente. Quindi ogni volta che ce l'avevo lì in casa, quando ci passavo davanti, sentivo questo peso, un senso di colpa enorme per dire: guarda, tu sei lì, io non ti uso e lo so, è colpa mia. E io so che anche voi a casa avete uno strumento, avete una chitarra magari, ma pure, che so, un piano, una tromba, un violino, che ogni volta che lo vedete vi fa venire un senso di colpa orribile perché quello strumento voi non lo sapete suonare. 800 24 00 24, oppure i messaggi al 349 238 6666. Mi sa che lo scriviamo più grande, Laura, la prossima volta che non vedo niente. 349 238 6666, invece, per chiamare 800 24 00 24. Vi potete sia chiedere informazioni sulla chitarra, ma soprattutto raccontarvi di quello strumento che vi fa venire sensi di colpa ogni volta. Per vederla e comprarla la chitarra potete già farlo subito, radio24.it. Per sentire la sua storia alzate un po' il volume. Chitarra classica Arro a 6 corde, anno di produzione 2001, materiale legno d'acero e linder stratificato. Altezza 1 metro, larghezza massima 37 cm, profondità 11 cm, peso 3,8 kg. Corda in nylon seminuove, usata poche volte, tenuta sempre in casa, ottima per strimpellatori senza pretese. Valore commerciale 25 euro, base d'asta vendo tutto 90 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. Tutti abbiamo uno strumento musicale in casa, che siamo musicisti oppure no. Non so il perché, però prima o poi uno strumento, uno qualsiasi, lo compriamo sempre. Di solito quando succede così è perché non siamo dei musicisti. Perché i musicisti, quelli veri, il loro primo strumento non lo comprano mica. Lo ricevono in regalo quando hanno 3, 4 o 5 anni. E quello strumento diventa un compagno di vita e poi un compagno di lavoro, ovviamente. Io infatti non sono musicista, eppure possiedo una chitarra. È una chitarra in legno chiaro, anzi Cioè, la cassa armonica è chiara e il manico è più scuro. Se avete una webcam potete anche vederla, ce l'ho qui con me. È stato un regalo di mia madre dopo che io avevo comprato un corso di chitarra senza avere la chitarra, ovviamente. Non so se vi ricordate, era il videocorso di chitarra di Red Ronnie, per essere precisi. Era un corso che ti prometteva di diventare Keith Richards in 10 lezioni. Io non sono diventato Keith Richards, ovviamente. Infatti, alla fine ho seguito un breve corso di chitarra da un maestro vero, in carne ed ossa, che mi ha insegnato gli accordi giusti, quelli che servono per fare le canzoni giuste nei momenti giusti, tipo il do, il la minore, che è sempre un po' più triste della maggiore, il sol e così via. E poi tutti i giri, ovviamente, il giro di do, il giro di sol, quello di fa. Mi ricordo che ho sviluppato subito un odio immediato per il barré. Per chi non conoscesse la chitarra, il barré è semplicemente una posizione del dito indice della mano sinistra, quella che sta sul manico, che rimane dritto e pigia a mo' di martelletto tutte insieme le sei corde. Una roba che per farla bene ti viene come minimo la tendinite. Il mio maestro di chitarra si chiamava Claudio. L'unica cosa che ricordo è che aveva una fidanzata in Australia e diceva che le storie per funzionare devono averci un oceano in mezzo. Come tutti i maestri mi pareva severo, ma soprattutto mi pareva inarrivabile. Mi sembrava possedesse qualcosa che le persone normali non hanno e che io ovviamente non avrei mai avuto. Una qualche verità nascosta che solo lui riusciva a scorgere e che si intravedeva quando metteva le mani sulla chitarra. Ecco, lui era un musicista, uno vero, uno di quelli per cui la vita è la musica, la giornata è la musica, uno che se gli chiedi, scusa, ma tu quanto suoni al giorno? Lui ti guarda e ti dice, io suono tutto il giorno. Ecco, io invece un musicista non lo sono mai diventato. Ci vuole troppa disciplina e troppo rigore. Io avevo semplicemente un unico obiettivo. Io volevo rendere concreta un'immagine che avevo in testa. Non so se vi è mai capitato di avere in mente una scena, una sequenza di immagini o anche solo un fotogramma di cui voi siete i protagonisti. E quell'immagine vi piace così tanto da mettervi d'impegno per realizzarla. Magari ci mettete un'ora, magari un mese, magari una vita. Ecco, l'immagine che io avevo in testa ero io che suonavo la chitarra in un parco sotto la neve. Una cosa piccola, una cosa stupida, che poco dopo il corso di chitarra fatto a 16 anni mi ero pure dimenticato, ma che mi è tornata in mente 5 anni fa, nitida, quando un giorno a Milano ha iniziato a nevicare. Io mi sono messo una giacca a vento, ho preso la chitarra e sono uscito sotto la neve, nel parco, davanti a casa mia. This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. So I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever. I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home. Come spesso accade, l'immagine che si ha in testa non è mai quella che si realizza. E così è nata anche quel giorno. Allora, per prima cosa, nel giro di mezz'ora la temperatura si è alzata e la neve è diventata pioggia. Non forte, cioè non goccioloni, ma con la pioggia fitta e leggera che ti bagna fino alle mutande. Ma ormai ero al parco e tanto voleva rimanerci. In più, ho pensato che alla fine quell'immagine là, no? Cioè quella della chitarra sotto la neve, potevo sempre modificarla leggermente e farla diventare la chitarra sotto la pioggia, no? Quindi mi sono seduto su una panchina, ho tirato fuori la chitarra e ho iniziato ad accordarla. Mentre aggiustavo la tensione delle corde, ho visto venire nella mia direzione una ragazza senza ombrello, con addosso un cappotto rosso. La prima cosa che ho pensato è stata, ecco, adesso mi prenderà per un cretino. Una specie di bohemien lombardo che vuole fare colpo suonando sotto la pioggia. Mi sarei potuto salvare spiegandole che in realtà io avrei voluto suonare sotto la neve e non sotto la pioggia. Ho pensato però che la spiegazione avrebbe peggiorato le cose e che era meglio starmene zitto. Ecco, forse la soluzione era smettere di suonare del tutto, però la scena sarebbe stata ancora più patetica, no? Cioè, un cretino, in un parco sotto la pioggia, con una chitarra in mano che manco suona. Mentre immaginavo tutte queste cose, lei avrebbe potuto pensare che ho sentito qualcosa cadere nella fanghiglia. L'ho sentito, vicino ai miei piedi. Ho guardato per terra e ho visto una moneta da 50 centesimi. Ho alzato gli occhi. La ragazza col cappotto rosso si stava allontanando dopo essersi rinfilata in tasca la mano con cui mi aveva lanciato la sua elemosina. Io allora ho raccolto i suoi 50 centesimi e ringraziandola le ho detto che non li volevo, che non stavo suonando per soldi, ma perché mi andava di farlo. Lei però deve avere frainteso, perché ha borbottato qualcosa. Io non ho capito, l'ho chiesto di ripetere e lei mi ha detto: siete tutti uguali voi altri. Chiedete dei soldi e poi non vi va bene quello che vi danno. Ecco, lei era Giulia, la donna che sarebbe diventata la mia fidanzata. Mi ha visto su una panchina di un parco con una chitarra, questa chitarra qua, ha pensato che chiedessi dei soldi, me li ha dati e poi si è arrabbiata perché credeva non mi bastassero. Ecco com'era cominciata, in un giorno orribile sotto una pioggerellina malinconica. Forse avrei dovuto intuirlo allora, no? Non avrebbe potuto durare una storia iniziata in un giorno così, con un fraintendimento come quello. È tutta questione di immagini che si hanno nella testa. Non ci si dovrebbe mai accontentare di un'immagine che solamente si avvicina a quella che abbiamo pensato. Deve essere esattamente quella. I surrogati sono sempre un ripiego. I grissini non possono essere il pane. La pioggia non può essere la neve. Nonostante tutto, nonostante la pioggia, nonostante l'incontro e l'immagine sbagliata, questa chitarra è in vendita. Il suo valore sul mercato è di 15 euro. La sua base d'asta qui è di 90 centesimi. La potete acquistare su eBay attraverso il sito di Radio 24. Per informazioni e le vostre storie di strumenti mai suonati, 800 24 0024. Sono le 16:19 minuti, questa è la D24, io sono Matteo Caccia. Ringrazio Gianluca che al 349-238-6666 mi scrive: non la vendere la chitarra assolutamente, perché nessuna compagna è meglio di una chitarra. Mi spiace Gianluca, ormai ho deciso di venderla. Invece avendo tutto, chiocciolaradio24.it. Ringrazio anche Maglio che scrive: sei venuto a raccontare balle pure su Radio 24? Maglio, va così, che ti devo dire? Intanto però all'8-00-24-00-24 c'è qualcuno che ha gli stessi sensi di colpa che ho io. Stefano da Bologna, pronto Stefano? No. Ma l'hai finita di fare il grillo parlante? è da ieri che ti seguo. Bene, è perché da ieri che ha cominciato, Stefano. Esatto, lo so. Ed è la prima volta che telefono in una radio. Ma oggi mi hai fatto venire un torcimento alle budella per le mie tre chitarre che sono lì, che sento piangere ogni volta, che mi hai fatto... Allora raccontami, confessati, Stefano, qual è il problema? Perché hai preso tre chitarre innanzitutto? Perché prima ne ho presa una per imparare. Sì. Poi ho cominciato a suonare più seriamente. Poi eravamo un gruppo che suonava della West Coast, ti ricordi Neil Young, Crosby, Stills? Cioè suonavate roba della West Coast, non andavate fino alla persona, ok. Magari. E poi un'altra però ce n'è, mi pare di capire, di chitarra. E poi la terza era l'ultima che è stata, l'ho presa così per scherzo, ma è stata quella che ho usato di meno. Ma... Quanti anni hanno queste chitarre più o meno? La più vecchia quanti ne ha? La più vecchia aveva, ho compiuto i 16 anni, adesso ne ho 52, quindi fai mai conti. Ah, invece l'ultima quanti anni è? L'ultima è una decina d'anni, che coincide grosso modo tipo le tue storie. Stefano, cosa vogliamo farne di ste chitarre? Eh? Le vuoi roderti nel senso di colpa per il resto dei tuoi giorni? Liberatene. No, non ci riesco. No, non ce la fai. Perfetto. Non ce la posso fare. Stefano, ti ringrazio molto. In bocca al lupo per Grazie. Il tuo senso di colpa. Ciao. Ciao. Massimo della provincia di Lucca. Pronto, Massimo? Ciao, eccoti qua. Tu che strumento hai? Ormai ho già sentito che l'asta è già partita, siamo già, mi sembra, 30 euro, 15 euro. No, è il valore commerciale di 15 euro. L'asta, guarda, non ho ancora controllato, ma la base di partenza sono 90 centesimi. Ma io penso che tu faccia un peccato... A venderla, dici? Mortale. Massimo, ho deciso. Hai capito, bravo. Però sappi che quando arriverai a una certa età, sei molto giovane, immagino... Non voglio sapere l'età, però ti dico. 34, te lo dico. Io ho 60. Benissimo. Ecco, allora, io ho una ventina d'anni che ho una chitarra classica. Uh-huh. Non è... poi, una premessa, ha tutte le corde in modello oppure a 3-3? No, questa è una chitarra semplice da strimpellatore, Massimo. Io non sono un musicista. Ah, vabbè, da niente. Esatto, che quando io... faccio un rappresentante e sto fuori da settimane, sì. Quando ritorno a casa che apro la porta, se sono di umore, sì. La prendo in tre canzoni, quattro, cinque, quelle che mi vengano a me negli anni 60, gli anni 70 e mi ritempera. Se sento che sono arrabbiato, la prendo, rifaccio 3-4 pezzi così e mi ritempera e accetto poi dopo il comportamento, quindi... il rapporto con la famiglia. Dico che la chitarra non voglio mettere la chitarra perché non si divaga nel soggetto. Mm. Però io credo che la chitarra, quando è appesa a un muro, o quando è su un cavalletto, o quando è, se hai la passione per la musica, chiaramente, ti dà una pasticca di sollievo. Quindi Massimo, allora la tua idea è che tu la tua non la vuoi vendere, però mi capisci. Non la vendo, però vorrei che non la comprasse nessuno, nemmeno da te. Benissimo, Massimo, grazie mille. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie. Ciao. Daniele da Livorno, pronto Daniele? Ciao. Ciao Daniele, tu che senti, strumento suonavi? Sì. Allora, io 18 anni fa suonavo una batteria, sì. Che suonavo una baracca del mio nonno, con tutte le ova di cartone, tutte le storie, finché il comune ci buttò fuori perché si era abusivi. Mi toccò portare la batteria. No, aspetta, eravate abusivi dove? Non era una baracca, hai detto? Era una baracca dove ci metteva l'auto il mio nonno, si levò l'auto, ci si montò la batteria e si suonava il gruppettino lì, diciamo, sai, gruppettini semplici. Cioè, ma questo a Livorno o... A Livorno, a casa mia, sì. Solo che poi ci sfrattarono perché era abusiva e la batteria la portai a casa. E allora feci una riunione di condominio, o meno la batteria. E allora mi toccò venderla perché era... Ah, quindi l'hai venduta sta batteria alla fine? Sì, la vendetti 18 anni fa, ma anni dopo l'ho trovata in vendita in un negozio e... sono entrato e mi sono comprato il piatto della batteria e ce l'ho qui in gabina con me 18 anni che non mi abbandona. Ma scusi, è quello che hai suonato adesso? È questo, guarda, ce l'ho davanti. Quindi scusami, aspetta, ricapitolando, tu hai venduto la tua batteria 18 anni fa, poi bravo. Hai ritrovato la stessa? La solita, in vendita perché ha girato molto e è complicato, come strumento la batteria è una cosa... che ha bisogno di spazio, di non ci deve essere nessuno intorno. Senti, ma tu hai mai sentito, hai mai incontrato qualcuno di quelli che l'hanno posseduta in quell'interregno tra te e te? È una ragazza l'ho conosciuta, stava vicino al quartiere mio, ho conosciuto anche lei, la portata a casa, ha sonorizzato un po' la stanza, ma anche a lei ho tirato la batteria. E allora lei l'ha rivenduta, ha girato un po' questa batteria finché l'ho trovata in vendita... in un negozio proprio a Livorno, nella vetrina, io ho fatto no, quella è mia. Senti, facciamo così, quanto l'hai venduta e quanto l'hai ripagata poi? Senti, io lo comprai roba di 1.800.000 e l'ho rivenduta a 1.600.000. Ah, aveva 2 anni, poi ci ho aggiunto roba, attenzione, la base era 1.800.000. E l'hai rivenduta l'hai ricomprata? No. Ho ricomprato solamente il piatto, il piatto soltanto. Perfetto, senti Daniele, ti devo salutare, fammi un piacere, dammi un ultimo colpo di batteria. Senti, lo faccio con la bacchetta. Vai. Grazie Daniele, ciao, alla prossima. Visto che continuano ad arrivarmi messaggi avendo tutto @radio24.it per sapere ma che cosa ne fai di questi soldi, la domanda è lecita, c'è un fondo dei desideri e questa è la lista. Fare il bagno nelle terme di Nagano insieme ai macachi. Scalare il Monte Rosa. Attraversare l'Atlantico su una nave cargo. Lanciarmi col paracadute da 6.000 metri. Sposarmi a Las Vegas. Non importa con chi. Giocare una partita a tennis con Nadal e batterlo. Portare a cena fuori Natalie Portman. Fare un viaggio in mongolfiera. Spaccare a pallonate tutti i vetri di casa dei miei e poi ricomprarglieli. Imparare a suonare la batteria. Incontrare Obama. Mourinho e il Dalai Lama. Fare un viaggio con la Transiberiana. Vedere una finale del Super Bowl. Vedere il Taj Mahal. Attraversare la foresta amazzonica. Vedere il deserto della Patagonia, quello del Gobi e quello del Nevada. Imparare il cinese. Imparare l'arabo. Prendere il brevetto da pilota e quello da sub. E poi imparare a camminare sul filo. Questa è la mia lista dei desideri, ma è aperta la lista. Quindi se voi avete dei desideri, vi mettete lì, me ne buttate giù qualcuno, potete scrivermelo a vendotutto@radio24.it. Oggi si chiude con la chitarra, anche se la chitarra rimane in vendita per 10 giorni su eBay. Domani si continua la vendita. Domani è la volta della mia tenda da campeggio. Una tenda a due posti a montaggio istantaneo, ripiegabile in 15 secondi, mai usata. Aperta una sola volta e richiusa dopo un'ora. Ve lo giuro che è vero. La tenda che non ho usato quest'estate. La tenda con cui ho dato il mio addio definitivo al campeggio. Quella di oggi invece era la storia della mia chitarra. Per vederla e comprarla andate sul sito radio24.it. Io ringrazio Pietro Lacorte, Laura Faggin, il Genovesi e il Bonini. E mi raccomando, anche voi, non fatevi scrupolo di liberarvi delle vostre cose, perché alla fine una chitarra è semplicemente una chitarra. Love, love, love.